bello felice del mondo. Lo felice del mondo. Questo è lo felice del mondo. Lo felice del mondo. E qui che si incontrano facce strane di una bellezza un po' disarmante, pelle di ebano su un padre indigene, occhi smeraldo come il diamante, facce metisce di razze nuove come il millennio che sta iniziando. E questo è l'ombelico del mondo. Questo è l'ombelico del mondo. E risalendo dentro se stessi alla sorgente del respirare. E qui che si incontrano uomini nudi con un bagaglio di fantasia. Questo è l'ombelico del mondo. Questo è l'ombelico del mondo. C'è il posto dell'immaginazione, dove convergono le esperienze e si trasformano in espressione, dove la vita si fa preziosa e il nostro amore diventa azioni, dove le regole non esistono. Questo è l'ombelico del mondo. Che nasce l'energia, centro nevralgico del nuovo mondo, da qui che parte ogni nuova via, dalle province del grande impero. Questo è l'ombelico del mondo. L'ombelico del mondo. L'ombelico del mondo. L'ombelico del mondo. L'ombelico del mondo. L'ombelico del mondo. Del mondo. ¡Avala! è qui che nasce l'energia. Del mundo.